qui senza, ora m'aspetta nel colle ai piedi. E speri, e voi? Perdo la ambascia, perder quell'angolo. E porti tu? Addio! No, fermo, fuori! Mi lascia! Fermo! Vai mettersi a qui il re.